Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Marianna Stefanucci. Lo stereotipo, per definizione, è la visione semplificata e largamente condivisa su un luogo, un oggetto, un avvenimento o un gruppo di persone accomunate da certe caratteristiche o qualità. I messicani pigri, i brutti simpatici, gli omosessuali raffinati, gli ebrei avari, se ne potrebbero elencare centinaia. I wanna be loved by you, just you, nobody else. Schopenhauer ha detto che l'universalità di un'opinione non costituisce né una prova né un motivo che la rende probabile. E noi oggi, a Destini Incrociati, sfateremo un luogo comune difficile da abbattere, quello della bionda stupida, che a Hollywood ha spopolato a partire da lei, la bionda per antonomasia, Marilyn Monroe. Non lo sa che per un uomo essere ricco è come per una donna essere bella? Magari una ragazza non si sposerà solo perché è bella, ma santo cielo, non è una dote? E se avrebbe una figlia, sarebbe contento che sposerebbe uno spiantato? Ma io... Vorrebbe che avesse le cose più belle del mondo e che sarebbe tanto felice. Beh, che c'è di male se io voglio queste cose? Beh, glielo concedo. Ah, ma avevano detto che era cretina, a me non sembra cretina davvero. Divento intelligente quando mi serve, ma al più degli uomini non piace. Marilyn viene dopo Veronica Lake e Veronica Lake dopo Jean Harlow, dal cui parrucchiere, proprio per imitarla, la Monroe si è fatta schiarire i capelli per la prima volta. Le attrici del secolo d'oro avevano spesso il ruolo fisso dell'oca e ad aggravare questa condanna c'erano lunghi contratti con le case cinematografiche. Ogni studio era tematico e quindi era ancora più probabile incorrere in parti sempre uguali a se stesse. More passionali, rosse indomite e trine e merletti per le grandi sognatrici. Hollywood, maestra nel dividere i film per genere, è anche maestra nel dividere le donne per categoria, creando una visione che viene poco a poco esportata in tutto il mondo. Sulla supposta stupidità delle bionde, in particolare, esiste una vasta letteratura che va dai romanzi alle barzellette, passando per la pubblicità, come questa di un'automobile il cui slogan recita «La bellezza è nulla, senza il cervello». Hello? I'd like to order french fries, a burger and a milkshake. This is a library. I'd like to order french fries, a burger and a milkshake. In una società in cui le donne guadagnano ancora meno degli uomini, spesso lavorando il doppio, non si fa fatica a credere che questo modo di ragionare continui a sopravvivere. La bellezza è un'arma a doppio taglio. Perché se è vero che nell'era dell'immagine conta moltissimo, è altrettanto vero che dà adito a pregiudizi duri a morire. Charlize Theron, considerata una delle attrici più brave e affascinanti del pianeta, è arrivata all'Oscar solo imbruttendosi per interpretare Monster, perché resiste l'idea che l'avvenenza non possa convivere col talento. Elle Woods, invece, la bionda versione Barbie, protagonista del divertente film del 2001 La rivincita delle bionde, riesce a convincere i luminari di Harvard ad ammetterla alla facoltà di legge con argomenti poco tradizionali. Ecco perché dovreste votare per me, Elle Woods, futuro avvocato per la classe 2004. È arrivata con una media altissima e ha ottenuto un magnifico 179 agli esami di ammissione. Un'esperta di moda. Non ne abbiamo mai avuta una. Non cercavamo qualcosa di diverso. La sua lista di attività extrascolastiche è impressionante. È comparsa in un video di Ricky Martin. È evidente che si interessa di musica. Ha anche disegnato una linea di biancheria intima in pelliccia sintetica per un'iniziativa di beneficenza della sua confraternita. È anche una filantropa e inoltre ama tutti gli animali. Elle Woods, benvenuta. Dimostrare di essere oltre che bella, intelligente e brillante non è sempre un'impresa facile per una ragazza. Lo sa bene Sharon Stone, 50 anni suonati, un corpo che non invecchia e un quoziente intellettivo sbalorditivo. 154. Dovevo usare quel numero come un attestato. Era incredibile. Facevo la modella. E molti cominciavano ad ascoltare quello che avevo da dire solo dopo che quel dato saltava fuori. Oggi l'aspetto fisico può essere una veloce scorciatoia per chi decide di accontentarsi. Anzi, aumentano le schiere di giovani che proprio sul corpo puntano tutto. Ma non è stato così per una ragazza giunonica, provocante, fascinosa e soprattutto dalle mille identità. È la nostra prima protagonista di oggi. Il suo nome è Rita Rusic. Rita Rusic. La testa l'ho capito che era necessario è bello averla ed è bello usarla. Rita Rusic, classe 1960, nasce a Porec, in italiano Parenzo, una cittadina che si affaccia sulla costa occidentale della penisola istriana. La storia dell'Istria è difficile e tormentata. Eternamente contesa da Italia e Jugoslavia, è stata motivo di rivendicazione politica da parte degli irredentisti di entrambe le nazioni. Quando con la fine della Seconda Guerra Mondiale viene assegnata alla Jugoslavia, comincia l'esodo forzato degli italiani che lasciano nella penisola un'identità sociale e culturale totalmente smarrita. Monumenti abbattuti, tombe aperte, toponomastica cambiata, tutto per eliminare ogni traccia del passato. Gli esuli diventati celebri sono decine. Il re del teatro canzone, Giorgio Gaber. Il campione del mondo di Formula 1, Mario Andretti. Poi Alida Valli, Gino Paoli, Sergio Endrigo. E anche la famiglia di Rita Rusic, di origine croata, durante il regime di Tito, è costretta a scappare in Italia. E quindi siamo entrati come rifugiati politici per avere i documenti, per poter lavorare, eccetera, eccetera. Il papà si arrabatta, fa tutti i lavori possibili, ore e ore al giorno per riuscire a portare a casa qualche soldo. E la burocrazia, labirintica, ostile, di certo non va incontro a chi si ritrova in una situazione complicata. Una vita non facile per una ragazzina, che nonostante l'età capisce benissimo tutto quello che sta succedendo intorno a lei. E siamo andati sì a Trieste, poi a Latina e poi definitivamente fino all'arrivo della cittadinanza italiana a Capua. E insomma, non era molto bello. Sono i sacrifici che bisogna fare per diventare cittadini italiani. Trasferimenti, bruschi distacchi, lunghe attese. Marita, un po' per storia personale, un po' per indole, non si perde mai d'animo. Nessun pianto e nessun capriccio gratuito. Fin da subito si rimbocca le maniche e in casa aiuta come può. Mentre lava i piatti e stira, non smette mai di cantare. Le piacciono i pezzi classici, ma anche quelli più nuovi che sente alla radio. È il suo modo di far sentire la sua presenza. E soprattutto, è il suo modo semplice e diretto per affrontare con allegria ogni momento. Non mollo mai, infatti io dico sono come Terminator, mi squaglio e poi mi ricompongo, vado, sempre avanti, senza fermarsi mai, senza demoralizzarsi mai. Cioè un giorno magari un po' così, un po' grigio, e poi invece splende sempre il sole. È una ragazza stupenda, lunghi capelli biondi che ama tenere sciolti sulle spalle, zigomi alti, seno prosperoso, fianchi che sembrano disegnati sul modello di una figurina di Betty Boop. In apparenza è una pin-up, ma sotto quel fisico perfetto si nasconde un temperamento di ferro, una testardaggine che la porta a ottenere sempre tutto quello che vuole, una determinazione che la guida come un faro. I ragazzi per strada si voltano a guardarla. Quando sono accompagnati dalla fidanzata, allungano l'occhio con discrezione e quando sono con gli amici fanno commenti poco eleganti. Rita non fa una piega, continua a camminare nella sua direzione a testa alta. Sembra già sapere benissimo dove vuole arrivare. A Rita Rusic lo spirito di sacrificio non manca, ma capisce, arrivata a 20 anni, che ha diritto anche lei a un po' di felicità. I sogni nel cassetto, che nell'adolescenza si sono trasformati in pagine e pagine di diario, sono fondamentalmente due, ma grandi, enormi, lontanissimi. Il primo che la accomuna a tutte le ragazze del mondo è quello di trovare il grande amore. L'amore con la A maiuscola, che ti fa battere il cuore, che non ti fa mangiare, che ti fa sempre e costantemente avere voglia di stare insieme. Le donne sono comunque delle eterne sognatrici, che in ogni uomo vorrebbero trovare il principe azzurro che le porta via col cavallo nel suo castello e risolva tutti i problemi, eccetera. Però, insomma, è un po' una favoletta. Se innamorarsi è una chimica che capita una volta ogni tanto, frutto di una serie di fortunate coincidenze, il secondo sogno, invece, è molto ambizioso. Rita vuole esibirsi, vuole mostrare il suo talento, dimostrare al mondo intero che non è soltanto una bella bambolina senza arte né parte. Lei balla, canta, sa recitare. Non le manca niente rispetto alle ragazze della TV. Ha tutte le carte in regola per sfondare nel mondo dello spettacolo. Sono gli anni Ottanta, gli anni del glamour, del lusso, degli yuppie pronti a tutto per far carriera. L'immagine è la cosa più importante e la pubblicità non detta più le sue regole solo sul mercato, ma anche nella vita di tutti i giorni. Gianni Versace, con il suo seguito di modelle superstar, è il re della moda. L'edonismo la fa da padrone in ogni ambiente. Mentre i fratellini piccoli giocano a Pac-Man, incollano trasferelli e mangiano girelle a merenda davanti a Gig Robot, le sorelle maggiori in fuseau, capelli cotonati e spalline importanti vorrebbero sposare Simon Le Bon. Parto con il verde guida, piedi nudi, sento radio a 1000 watt. Nasce dall'entusiasmo di Silvio Berlusconi la TV commerciale e Antonio Ricci e Beppe Recchia inventano il programma che nel bene e nel male ha cambiato la televisione. Comici e tormentoni, ragazzi in studio e risate registrate, parodie e soprattutto ragazze e procacci, antesignane di veline e letterine. Sono le ragazze del fast food di Drive-In. Squad boy, sono il paninaro e mi sparo dei bei paninazzi che mi smerigliano tutta la garganata. Bella sfittizia. Ma lo sai che m'acchiappio un casino? Ma lo sai che qua fuori c'è un vespone che se lo vedi è troppo giusto? E cosa credi che c'è sotto la scocca? La ruota! Ma va, frutta, che non sei altro! Drive-In è un programma che Ricci ha definito di satira, libero e libertario, manifesto degli esagerati anni Ottanta, nel quale le donne sono iperboliche, caricature parodistiche, figure retoriche viventi. Ma queste donne sono anche la rappresentazione del modello estetico in voga quegli anni. Moana Pozzi, Carmen Russo, Sabrina Salerno e anche la nostra Rita Rusic, per fortuna o purtroppo, risponde esattamente a questi canoni. Rita appena sente parlare del nuovo film di Castellano e Pipolo, la coppia d'oro della commedia italiana trash, che al botteghino non sbaglia un colpo, si infila un vestito di maglina e stivali al ginocchio, ritocca la frangia gonfiandola con fon e spazzo alla rotonda, fa le scale di corsa e si presenta al provino. Sa di volare alto, spera di sfondare nel mondo del cinema. Però si diventa così con la grande volontà, con la grande caparbietà, con grande voglia di arrivare. La fila per candidarsi al ruolo di Uraia, bellissima donna della tribù dei barbari che scappa dagli accampamenti romani per riunirsi alla sua gente, è lunghissima. Rita, copione arrotolato nella mano destra e cicca in bocca per sfogare il nervosismo, è solo una delle tante. Il protagonista maschile, invece, che diventerà Attila, flagello di Dio, è già stato scelto. È Diego Abatantuono. Alt! Qui comincia il territorio romano! Fermatevi! Non se passa! Chi siete? Barbari! Che cosa volete? Distruggere Roma! Dove passo io non cresce più l'erba, caro! Ma tu come ti chiami? Attila! Come? Attila! Come? Ah! Attila! Che sei sorto? Che siete in attributi handicappati? Ah! Come atrocità! Doppia T come terremoto e tragedia, I come ir di Dio, L come lac di sangue e A come adesso venga e ti sfascio le corna. Rita Rusic ha poco più di 20 anni e tutti i sogni ancora da realizzare. Il film in apparenza è una commedia senza spessore che ha tutta l'aria di finire nel dimenticatoio. Ancora nessuno sa che invece diventerà un vero e proprio cult. E quello che non sa ancora Rita è che questo film è destinato a cambiare la sua vita per sempre. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo nel 1982 e una giovanissima Rita Rusic, bella e spudorata, ha capito che usare il suo corpo è solo una scorciatoia più rapida per fare capire a tutti quanto è brillante la sua testa. Imo! Con le battute imparate a memoria e un costume molto ridotto, sale sul palchetto del provino di fronte al direttore casting, ai registi e ai due produttori della commedia trash destinata a diventare un cult, Attila Flagello di Dio. Sono tutti lì per scegliere la perfetta Uraia, una affascinante sexy donna della tribù dei barbari che mette a tacere la presunzione degli uomini col cervello. Neanche a dirlo, Rita, ostinata e sicura, è proprio quello che stanno cercando. Ho parlato con la maga. Odino è con noi. Imo a Roma. Ma che a Roma? I romani sono tanti. A Roma ci arriviamo tutti morti. E ci faranno a pezzettini. Io ho un'idea. Eh? Adesso viene fuori che anche le donne hanno le idee. Oh. Silenzio. Basta passare per i posti dove non ci sono i romani. Ma va. Ho avuto un'idea. Basta passare per i posti dove non ci sono i romani. Bell'idea. Giusto, sì. Bell'idea. Però... Purtroppo non c'è bisogno di essere barbari per cadere nel pregiudizio. Una bionda procace, secondo uno stereotipo che continua a essere attuale, difficilmente ha qualcosa in più oltre al fisico. Ma un uomo seduto in disparte, matita in una mano e a punti nell'altra, capisce immediatamente che Rita non è una ragazza qualsiasi. Il suo carattere deciso e il suo piglio pratico si intuiscono ad ogni suo gesto. A quell'uomo già affascinato ma ancora inconsapevole, Rita sta per cambiare la vita per sempre. È il produttore di Attila e il suo nome è Vittorio Cecchigori. Vittorio Cecchigori. Vittorio Cecchigori, fiorentino doc, nasce nel 1942 da papà Mario, grande produttore cinematografico, e mamma Valeria, una donna tanto minuta quanto energica e battagliera. Tra i due è amore a prima vista già dalla prima volta in cui si sono parlati, durante un Fiorentina-Juve. È il febbraio 1940 e la signorina Valeria Pestelli è seduta in gradinata. A metà ripresa si scatena una rissa tra tifosi, non molto lontano da lei. Insulti, provocazioni, persino qualche pugno. Quando Mario, per chiudere la questione, scaraventa sotto di un paio di metri un sostenitore bianconero, l'applauso più convinto arriva proprio da lei. Poco dopo si ritrovano a ballare a una festa nei saloni settecenteschi di Palazzo Borghese. Nel 41 si sposano e pochi mesi dopo hanno Vittorio. Quando penso a mia madre, che adesso è circa un anno e se n'è andata, un pochino piango. Valeria è il vero punto di riferimento per la famiglia. La colonna portante sia nel privato che nel lavoro. È lei, per esempio, che legge i copioni per consigliare prima Mario e poi Vittorio, che segue prestissimo le orme paterne. Steno, Risi, Monicelli, Scola, il gruppo Cecchigori colleziona un successo dopo l'altro. Vittorio cresce con il mito della famiglia unita. Come tutti i suoi coetanei, va a scuola, al cinema, alle feste, con il vantaggio rispetto agli altri di frequentare un ambiente curioso e stimolante sotto ogni punto di vista. Conosce molte ragazze, si diverte e spera sempre di trovare quella giusta, anche se la cosa non è facile. Sicuramente la maggior parte sono state con me perché mi chiamavo Vittorio Cecchigori e non solo Vittorio. Quando hai un padre così ingombrante, di sicuro uno degli artefici del successo del cinema italiano in tutto il mondo, non è facile competere, né sul piano umano, né su quello lavorativo. Le aspettative su Vittorio sono altissime e commettere un errore è un attimo. Basta qualche scelta sbagliata per fare uno scivolone da cui è impossibile risalire. Basta una miopia per farsi passare qualcun altro davanti e perdere la fetta di mercato conquistata con sudore e fatica. Ma per il giovane Vittorio tutto questo, anziché essere un'ansia, costituisce una sfida da affrontare con tutto se stesso. Quando arriva il 1982, al momento di produrre Attila il flagello di Dio, ha 40 anni e un'esperienza ormai consolidata alle spalle. Mi faccio la barca di Corbucci, mia moglie è una strega con Eleonora Giorgi e Renato Pozzetto e poi le pellicole di Celentano, diventate un vero e proprio cult. Asso, Innamorato pazzo e Il bisbetico domato. Tanti auguri a te, tanti auguri cara Laia, tanti auguri a te. Ma non mi dire che è il tuo compleanno. Sì. Auguri. Cosa devo fare? Soffiare, no? Un bacio più grosso, grosso. Che cavolo, troppo grosso. Una, due, tre, quattro. Sono 40. 40 anni? Mica li dimostri, sai. Lo so. Io ne ho 25. Neanche tu li dimostri. Grazie. Te ne davo 26. Sei un maleducato. Sei un villano. Signorina, che ne aveva detto? Questo, la gentilezza. Non sa nemmeno dove stare casa. Sei proprio uno Zulu. È un set, quello di Attila, in cui si ride moltissimo, non solo quando si girano le scene, ma anche nel backstage. C'è un clima di grande armonia e tutti hanno voglia di portare a termine il loro lavoro nel migliore dei modi. Vittorio tiene tutto perfettamente sotto controllo, ogni tanto prende qualche appunto, si segna delle note, ma c'è una persona che continuamente lo distrae. È l'esordiente Rita Rusic, nella parte di Uraia, che cattura la sua attenzione prima con il suo corpo perfetto fasciato in un costume che sembra cucito addosso, e poi con le parole. Giorno dopo giorno, i due chiacchierano, stanno insieme, si innamorano. Lei è più giovane e bellissima, potrebbe avere qualsiasi uomo, ma vuole Vittorio. Quella persona gentile e umile in modo quasi disarmante, quella persona a cui tutti vogliono bene. Lui la guarda come nessuno l'ha mai guardata prima. Ha l'istinto di proteggerla, di difenderla, e la rispetta profondamente. Tanto che a un punto è quasi tentato di fare marcia indietro perché ha paura di soffrire, perché ha paura che lei per lui sia davvero troppo. Ma bastano la dolcezza e l'entusiasmo di Rita a convincerlo. Quando senti che la felicità sta passando e tu la devi prendere, non è che puoi lasciarla andare via, non è che ricapita sempre. Rita e Vittorio decidono di tenere nascosta la loro relazione per non turbare l'atmosfera delle riprese. Dicono tutto soltanto a papà Mario. Lui, che già aveva iniziato a trattare la ragazza come una figlia, istintivamente la abbraccia e le dice che per suo figlio non avrebbe desiderato di più. L'anno dopo i due si sposano con un matrimonio da favola. Vittorio è molto innamorato, ma anche molto geloso, e si rifiuta di rivedere le scene in cui sua moglie è mezza nuda. Rita, femminile e femminista, fa quello che mai avrebbe creduto di fare, rinuncia alla sua carriera di attrice e si dedica al marito e ai figli che nel frattempo sono nati. Mai dire mai. Non è una scelta che le pesa, anzi, semplicemente sceglie di incominciare a lavorare dietro le quinte. Senza neanche accorgersene, legge i copioni, valuta le sceneggiature, dà consigli a suo marito, esattamente come faceva sua suocera con suo suocero. D'altra parte, suggerisce la psicologia spicciola, succede molto spesso che gli uomini cerchino donne che gli ricordano le loro madri. Devo dire grazie a chi mi ha insegnato tante cose, quindi chiaramente mio suocero, mio marito, e quello senz'altro, perché se non hai la possibilità di iniziare, non hai la possibilità mai di far vedere che sei capace, che hai le capacità, questo senz'altro. E così, lentamente, senza neanche accorgersene, Rita diventa sempre di più una vera e propria produttrice. Vittorio non fa nulla senza averla consultata, non prende alcun tipo di decisione prima di averne parlato con lei. La sua grande forza, oltre al carattere risoluto, è l'intuito che le fa affiutare il successo, anche quando è insospettabile. Oltre che il mestiere ci vuole un istinto. Ti deve piacere quello che piace alla gente. A Destini Incrociati siamo all'inizio degli anni 90 e c'è una coppia solidissima che trova ancora più forza nel lavorare insieme. Lui è Vittorio Cecchigori, produttore cinematografico e figlio di Mario, da cui ha imparato a fare un mestiere nel migliore dei modi. Lei è Rita Rusic, attrice di origine croata che ha debuttato in Attila, flagello di Dio, sul cui set ha conosciuto il marito, ma che poi ha scelto di rinunciare alla sua carriera per dedicarsi alla famiglia. Non solo, a dire la verità, perché consiglio dopo consiglio è diventata il vero braccio destro di Vittorio, rivelando dietro al fisico che sembra non subire il passare degli anni un intuito davvero talent scout. Un talento si scopre, allora devi essere, ci vuole mestiere e ci vuole anche fortuna, però ci vuole anche, cioè la fortuna viene dal fatto che a te piace qualcosa che piace a tanti. Ecco, in più ci vuole invece l'esperienza di capire che cosa vuole il pubblico. Vuole divertirsi, quindi vuole un personaggio che sia molto bravo, però deve avere che caratteristiche deve avere, quelle le acquisisci con il mestiere. È il 1995 e sul tavolo dello studio principale di casa Cecchi Gori arriva una sceneggiatura. Parla di quattro universitari trentenni fuori corso che vivono assieme in un appartamento di Firenze. Lungi dal dedicarsi agli studi, i quattro tirano avanti tra momenti di divertimento goliardico e altri di profonda malinconia, senza nessuna voglia di crescere e nessuna prospettiva per il futuro. L'autore è alla sua prima regia e Vittorio è titubante. Non sa se è il caso di scommettere su una storia apparentemente così esile, che ha un po' il sapore di già visto. Marita tiene duro e spinge affinché parta la produzione, riuscendo a convincerlo che quello sconosciuto, Leonardo Pieraccioni, ha tutte le carte in regola per fare strada. E così, se grazie alla sua testardaggine i laureati ottiene grande successo, l'anno dopo è boom per il ciclone. Questo motorino serie Lux immatricolato 1979 è l'orgoglio della mia vita. Mai un colpo di tosse, un filo di ruggine, una sbandata fuori posto, niente, un santo. E pensare che di motivi per lasciarsi andare a ferro vecchio, ce ne avrebbe avuti parecchi. Quando li smontò sopra in 5 per festeggiare la vittoria dell'Italia Mondiale dell'82, quando ci caricai sopra 2 damigiane, una d'olio e una di Morellino per portarla a Don Luigi, quando per una scommessa idiota gli bloccai la manopola del gas e lo lasciai andare da solo a diritto lungo un viottolo per vedere quanto restava in equilibrio. Ma soprattutto ha sopportato l'avvento dei nuovi scooter, quei moderni mostri neri a punta che fanno 130 in salita e 160 in discesa, con quei nomi assurdi, MKV, VVKK, KKVVF, e che sono una specie protetta. Se le malelingue continuano a dire che Rita sia accalappiata Vittorio con tutta l'astuzia di una donna ambiziosa, di certo per Vittorio Rita è la donna mandata dal destino, sia perché gli dà tutto l'amore di cui è capace, sia perché lo sostiene e aiuta nel lavoro. Dopo avergli fatto scoprire Pieraccioni, suggerisce di scommettere su Paolo Virzì per Ferie d'agosto. E come al solito non si sbaglia. Il regista oggi con il suo ultimo film La prima cosa bella sta addirittura per concorrere al premio Oscar. La prima cosa bella. Mentre il sodalizio artistico e di affari tra Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic continua ad andare a gonfie vele, il matrimonio comincia a scricchiolare. I due tirano avanti qualche anno non solo per il bene dei figli, ma soprattutto per il profondo affetto che li lega e che gli rende difficile una separazione dopo così tanti anni di condivisione totale. Prima del divorzio definitivo, producono insieme La vita è bella, con il quale Roberto Benigni prende il premio Oscar. And the Oscar goes to Roberto Benigni in Life is Beautiful. This is a terrible mistake because I used up all my English. No, I don't know. Oh, this is, I don't know how to express. It's a question of love. Grazie all'Italia e grazie all'America. I learned a lot of things here. Thank you very much. And I hope really I don't deserve this. But I hope to win some other Oscars. Thank you. Il divorzio è sulle pagine di tutti i giornali e scatena il gossip sia sul lato privato che su quello degli affari. I soldi in ballo sono tanti e anche le rivendicazioni da entrambe le parti. Vittorio non può che riconoscere a Rita il merito di tanti successi e tantomeno lei può negare di avere iniziato una brillante carriera da produttrice grazie a lui. Diciamo che sono diventata produttore per caso, nel senso che ecco, facevo l'attrice, poi avevo dei problemi con mio marito, era molto geloso, quindi preferiva che io fossi dall'altra dall'altra parte, diciamo, quindi preferiva che io lavorassi come in produzione, come produttore, eccetera. Quindi ho iniziato, ma da sempre ho iniziato al suo fianco, al fianco di mio suocero, a leggere i copioni, a seguire tutto quello che erano gli appuntamenti con i registi, con gli scrittori, il montaggio, il primo montaggio, tutte queste cose qui. Quindi diciamo, ho fatto scuola di produttore per 10 anni e poi dopo 10 anni ho iniziato a lavorare con i giovani registi e insomma ho preso via. Mentre Rita continua da sola e rimboccandosi le maniche riparte da zero con una casa di produzione tutta sua, per Vittorio, privo del suo punto di riferimento di sempre, cominciano i guai, sia economici che giudiziari. Fallisce anche la sua squadra, quella fiorentina tanto amata da sua madre. Per difenderlo dagli attacchi, scende in campo anche la sua nuova compagna, la showgirl Valeria Marini, nella quale cerca la figura di sua moglie. Io ho massimo rispetto della magistratura. C'è solo una cosa da dire, che quest'uomo è da 3 anni perseguitato, umiliato in tutti i modi. Non voglio dire che Vittorio non è colpevole di aver fatto, ho detto Vittorio avrà sbagliato anche i collaboratori. Certo è che a volte quando si punta un dito verso una persona, prima che questa persona venga dichiarata innocente, può anche passare del tempo, abbiamo visto il caso di Enzo Tortora, che è stato accusato di tutto e di più, alla fine è morto, dopo, Valeria, quando poi è morto è stato proprio proclamato innocente. Tutto quello che tocca a Rita Rusic diventa oro. Succede questo anche quando decide di produrre un film tratto dal libro, diventato caso editoriale, di quel ragazzo timido che seguiva suo padre Pipolo sul set di Attila. Scusa ma ti chiamo amore, di Federico Moccia. Nuovi amori, nuove famiglie, debutti e talenti pronti a esplodere. Su quel set, nel 1982, è successo davvero di tutto. Perché come sempre, le storie più belle prima del cinema le racconta la vita. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.